24, la storia. È stato un momento storico di grande impatto emotivo. Sicuramente il più grande evento storico per l'Europa, il crollo del muro e la possibilità di una riunificazione della Germania nel cuore dell'Europa. Era la storia allo stato puro. Stavano accadendo cose a cui nessuno avrebbe mai pensato di assistere. Pensai, hanno fatto bene. È il popolo che deve decidere. Feed animals in the zoo. Then later a movie too and then home. Era come se qualcuno avesse premuto l'acceleratore e la storia si fosse messa improvvisamente a correre. Emozione dei protagonisti: George Bush, Mikhail Gorbachev, Helmut Kohl, tutti protagonisti di eventi indimenticabili, la caduta del muro di Berlino e la riunificazione delle due Germanie. Il 9 novembre dell'89 finisce la contrapposizione tra Est e Ovest e dopo quel giorno, dopo quell'anno, il mondo non sarà mai più lo stesso. E oggi la cancelliera che guida le sorti di un'Europa sempre più grande e sempre più in crisi, è utile rivivere le emozioni e i misteri di quelle ore lontane. Con noi i protagonisti di quei giorni, i presidenti Gorbachev e Bush, il cancelliere Kohl, il ministro degli esteri tedesco di allora Genscher e il sorprendente Amarcord di un anno fatale. Estate 1989. Molti cittadini della Germania Est approfittano delle vacanze estive per fuggire all'estero. Vogliono offrire ai figli una vita libera al di là della cortina di ferro. Siamo da mamma e papà. Siamo dal nonno e dalla nonna. Spesso non hanno nulla, solo i vestiti che indossano. Il primo paese del patto di Varsavia ad aprire confini con l'Occidente è l'Ungheria. Oh, a perfect day. Nel giro di poche settimane, dunque, l'iniziativa di qualche singolo è diventata un movimento di massa che preoccupa tanto i governi dell'Est quanto quelli dell'Ovest. L'Unione Sovietica vive un momento cruciale. Glasnost e Perestroika sono le parole d'ordine del nuovo segretario generale del Partito Comunista, Mikhail Gorbachev. La sua politica ha innescato una serie di cambiamenti nell'Europa dell'Est che adesso stanno per travolgere anche i tedeschi. Il cancelliere federale Kohl, da parte sua, è in una fase di grande difficoltà, stretto com'è tra i problemi di politica interna e gli scontri in seno al suo partito che rischiano di far cadere il suo governo. Ecco il suo laconico commento. C'era il congresso del mio partito. In pratica, volevano farmi fuori. Manca infatti un anno alle elezioni politiche. Per Helmut Kohl questo congresso si trasformerà in una tortura, ma per motivi molto personali. Ecco la sua confessione all'amico Gorbachev, tra ironia e commozione. 8 giorni prima del congresso, di notte, proprio in questa casa, cominciai ad avere dei dolori terribili, dolori incredibili, insopportabili. Ed ero completamente solo. Mia moglie era andata a Ludwigshafen. Ero in pigiama, mi sono infilato nel accappatoio e ho chiamato il poliziotto che montava di guardia. Stavo impazzendo dal dolore. Mi hanno caricato su un'auto della polizia e mi hanno portato subito in ospedale. Lì il medico mi ha detto: dobbiamo intervenire subito. Lei ora rimane qui e domattina alle 5 la operiamo. A quell'ora l'ospedale è deserto e nessuno la noterà. Io sono saltato su. Ma è impazzito. Se io domattina sono qui e vengo operato, la cosa finisce subito sui giornali e nessuno crederà alla storia della malattia. Penseranno che voglio evitare di presentarmi al congresso del partito. Sentivo il mondo crollarmi addosso. Ma il medico disse: io non posso prendermi questa responsabilità. Lei deve restare qui. Abbiamo discusso animatamente per un'oretta e alla fine si è arreso. D'accordo, ma si assume lei ogni responsabilità. Ma per calmare il dolore ti hanno dato degli antidolorifici? No, no, no. In pratica mi hanno messo un catetere che serviva a svuotare la vescica. E sono andato via così. Al congresso del partito sono andato con quel tubo di gomma. Avevo dei dolori veramente pazzeschi. Helmut Kohl maschera bene la sua sofferenza e sul palco del congresso della CDU ostenta un sorriso da vincitore. Ha infatti preparato un clamoroso colpo di scena. D'accordo con il premier ungherese Nemeth, nell'ora di massimo ascolto televisivo, gruppi di cittadini della Germania dell'Est potranno passare la frontiera con l'Ovest. Per il cancelliere è un trionfo. Tirando le somme di quanto emerso in questo congresso, posso tranquillamente annunciare che mi candido come cancelliere anche alle elezioni del 1990. E con il vostro aiuto spero di potercela fare. Questo è il mio auspicio e penso che sia anche il vostro. Tutti i cittadini della DDR che sono qui presenti possono lasciare il paese con i loro documenti. Mix 24, la storia. Qui a Mix 24 stiamo ricostruendo una delle tappe fondamentali della storia mondiale. Siamo nel 1989 e un numero sempre maggiore di persone cerca la salvezza e fugge voltando le spalle al proprio paese, la Germania dell'Est. Nel settembre di quell'anno l'assalto all'ambasciata della Germania Ovest a Praga. I ministri degli esteri delle due Germanie si incontrano a New York. È cominciato il disgelo. Sentiamo Genscher, della Germania dell'Ovest. Durante il viaggio ero molto agitato. Da una parte ero contento, dall'altra però continuavo a essere preoccupato che qualcosa andasse storto. A New York parlai anche con Eduard Shevardnadze. Gli dissi: lei ora deve davvero aiutarmi, la situazione è sempre più drammatica. Mi chiese: ci sono bambini nell'ambasciata? Gli dissi che ce n'erano molti e lui: l'aiuterò. L'estate è finita e con l'arrivo dell'autunno la situazione dei rifugiati tedeschi dell'ambasciata della Germania Ovest a Praga è sempre più drammatica. Ma all'improvviso il sogno di libertà dei profughi diventa reale. Il 30 settembre dell'89 diventerà un giorno indimenticabile anche per il ministro Genscher. Siamo venuti qui oggi per comunicarvi che il vostro espatrio... Non riuscì a proseguire. Ci fu un urlo incredibile di gioia che non avevo mai sentito e non avrei mai più sentito in vita mia. In realtà fu un grido che non sentimmo solo qua. Era come le trombe di Gerico che fecero crollare le mura. In quel momento fui colto da una forte aritmia cardiaca. Meno male che potei reggermi. Nella notte partono per l'Occidente i primi treni della libertà. Tutta la Germania dell'Est è attraversata da un'ondata di euforia nazionale. I dimostranti chiedono elezioni democratiche e riforme come in Polonia e in Unione Sovietica. Gridano: il popolo siamo noi! Ma i dirigenti della Germania Est, mentre celebrano l'anniversario della nascita della DDR, respingono con violenza le dimostrazioni nelle strade di Berlino Est. Ad evitare un'escalation della violenza è la presenza di Mikhail Gorbaciov, ospite d'onore in Germania, insieme agli altri leader del Patto di Varsavia. Il suo ricordo. Alle celebrazioni del quarantennale della Germania Est avemmo una percezione, come tutto il mondo, ma del resto la cosa era sotto gli occhi di tutti, che il regime di Honecker fosse in agonia. Il cambiamento era già avviato. Honecker sembrava ignorare completamente quanto stava accadendo intorno a noi, nei nostri paesi, in Europa, nel mondo. Poi, in un incontro successivo, ci fu il famoso colloquio nel quale gli dissi: chi arriva troppo tardi, la vita lo punisce. Chi arriva troppo tardi la vita lo punisce. Per il presidente dell'Unione Sovietica c'è dunque un solo modo per riformare la Germania Est: dissolverla. Erich Honecker viene sollevato dalle sue funzioni e la Germania Est non ha più un capo di Stato. Siamo a Berlino Est, il 4 novembre dell'89, scendono in piazza 500.000 tedeschi. Ogni giorno oltre 10.000 persone fuggono dalla DDR. I dimostranti chiedono al nuovo capo di Stato, Egon Krenz, riforme e un socialismo dal volto più umano. Ma come spesso accade nella storia, sarà un caso, anzi un errore, a cambiare il corso della storia stessa. Il portavoce del Partito Comunista della Germania Orientale, Günther Schabowski, male informato, comunica una serie di provvedimenti che in realtà entreranno in vigore solo nei giorni successivi. È il giovedì 9 novembre dell'89. Ecco la sua conferenza stampa. Un nuovo regolamento che darà la possibilità a ciascun cittadino della Repubblica Democratica Tedesca di lasciare il paese, di espatriare da qualsiasi punto della frontiera. Quando entrerà in vigore? Secondo le mie informazioni, dovrebbe partire da subito, immediatamente. Si prevede un grande movimento di persone? In pochi minuti, radio, televisioni e quotidiani di tutto il mondo diffondono la clamorosa notizia. Nella Germania Est, la notizia si propaga in un lampo. Da ogni angolo del paese un fiume di persone si riversa su Berlino e sugli altri posti di frontiera. Se c'è qualcuno che dorme, vuol dire che è morto. Per me è così. È una notte indimenticabile. Il muro di Berlino, il simbolo del mondo diviso in due blocchi, non esiste più. Per 28 anni centinaia di chilometri di filo spinato hanno separato i tedeschi dai tedeschi. Adesso l'Europa e il mondo intero non saranno più uguali. Ma dove erano i protagonisti della nostra storia, Gorbaciov e Kohl, in quella storica notte? Mi trovavo a Mosca. Nelle prime ore del mattino seppi che il muro aveva cessato di esistere. Fisicamente c'era ancora, ma in sostanza era già crollato. Pensai, hanno fatto bene. È il popolo che deve decidere. E tu dov'eri quando hai appreso la notizia? Io ero in Polonia, durante una visita ufficiale molto difficile. C'era anche il generale presidente, un tipo molto rigido e tutt'altro che cordiale. La notizia arrivò mentre eravamo insieme. Appena me lo comunicarono, non volli crederci. Pensavo che fosse una bufala. Mentre a Berlino Est gli eventi incalzano, a Bonn il Parlamento è in riunione. All'improvviso i banchi dei deputati sono in fermento. Da Berlino, infatti, arrivano notizie clamorose. Ancora le emozioni di quelle ore nel ricordo di Mikhail Gorbaciov, di Hans Genscher e di Willy Brandt. Ho saputo che quel giorno in Parlamento c'era anche Willy Brandt, che si mise a piangere, senza vergognarsi o cercare di nascondere le lacrime. Io penso che quel giorno Willy Brandt abbia sentito che anche per lui si concludeva un cammino iniziato insieme a Walter Scheel, con i trattati dell'Est, il trattato di Mosca, quello di Varsavia. Quel giorno avrà compreso sicuramente l'importante contributo che con la sua grande personalità aveva dato al corso della storia. Nulla. Nulla sarà più come prima, soprattutto per quanto riguarda la situazione nella Germania Est. Lì davvero nulla sarà più come prima. E quella di Willy Brandt è una facile profezia. Nulla sarà più come prima. La caduta del muro cambia la geopolitica dell'Europa e del mondo. Ma Helmut Kohl spiazza tutti. A sorpresa, il 28 novembre, cioè meno di 3 settimane dopo la caduta del muro, presenta al Parlamento tedesco un piano per la riunificazione della Germania. Un piano in 10 punti. E l'ultimo è quello fondamentale. Decimo. Vogliamo costruire una condizione di pace in Europa nella quale il popolo tedesco con un atto di autodeterminazione ritrovi la propria unità. La riunificazione, intesa come riconquista dell'unità nazionale della Germania, resta l'obiettivo politico del governo federale della Germania Ovest. Dunque per Kohl la riunificazione della Germania è fondamentale, ma la sua iniziativa spiazza i capi di Stato, le cancellerie europee e anche ovviamente il Cremlino. A Washington invece il presidente americano accoglie con favore la mossa del cancelliere tedesco. Come in un gigantesco domino l'assetto del mondo sta cambiando. Alla Casa Bianca, solo da alcuni mesi, George Bush Senior dà appuntamento a Gorbaciov a Malta, il 2 dicembre dell'89. Volevamo andare a quell'incontro con un ordine del giorno definito. Intendevamo collaborare con Gorbaciov e migliorare i nostri rapporti, ma questo richiedeva del tempo e forse avremmo dovuto muoverci prima. Penso tuttavia che l'incontro di Malta avesse delle finalità molto precise e che passerà alla storia come un summit sicuramente positivo. Però è sorprendente che abbiamo deciso proprio per Malta, nel Mediterraneo, una famosa isola, al centro di molteplici interessi internazionali. Io avevo proposto Kennebunkport o Camp David, ma non andavano bene. Mi pare che tu facesti un paio di proposte che però a me non piacquero. L'immagine di due presidenti che si incontrano su delle navi da guerra mi faceva ricordare Roosevelt che faceva i suoi incontri sui cacciatorpediniere o sugli incrociatori. Poi tu hai proposto di incontrarci senza giacca e cravatta. E così è avvenuto il nostro primo incontro ufficiale. Senza cravatta, comodamente seduti, le gambe accavallate. Questo è il futuro che vorrei contribuire a costruire. È il futuro al quale Mikhail Gorbaciov e io abbiamo dato inizio qui a Malta. Grazie per l'ospitalità. Alla conferenza stampa che chiude l'incontro di Malta il 2 dicembre dell'89, George Bush parla di un futuro da costruire insieme. Stati Uniti e Unione Sovietica lavoreranno per l'unità tedesca. Nella Germania dell'Est il regime comunista ha le ore contate. Sono i giorni della svolta che avrà conseguenze per il mondo intero. Il crollo del regime comunista. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con l'appuntamento con la storia. Stiamo raccontando i giorni in cui il mondo ha cambiato volto per sempre. È la storia della riunificazione della Germania e poi del crollo del comunismo a Mosca. Il cancelliere Kohl è a Dresda per incontrare il nuovo capo del governo della Germania Est. Una folla immensa si raduna per ascoltare le parole del cancelliere tedesco e il suo è davvero un discorso memorabile. È martedì 19 dicembre dell'89. È stato il discorso più difficile della mia carriera politica. Davvero non sapevo come sarebbero andate a finire le cose. Ma non mi era chiarissimo l'enorme valore simbolico di quel raduno davanti alla Frauenkirche. Il mio obiettivo resta, quando il momento storico lo permetterà, l'unità della nostra nazione. La casa Germania, la nostra casa, deve essere l'obiettivo della nostra politica. Questo deve essere il nostro obiettivo. Un obiettivo difficile quello di Kohl. Il 23 dicembre la porta di Brandeburgo viene aperta e torna a essere l'emblema di una Berlino unita. Pochi giorni dopo, in un clima di euforia, i tedeschi festeggiano la fine dell'89. Ma a Mosca il clima è sempre più cupo. La gravissima crisi economica viene attribuita alle riforme avviate da Gorbaciov. Per impedire il crollo dell'Unione Sovietica, Gorbaciov ha un disperato bisogno degli aiuti economici dell'Occidente. E allora va avanti. I tedeschi potranno scegliere di vivere in uno Stato unitario, ma quanto costerà a Bonn questa riunificazione? A sorpresa, il cancelliere tedesco viene invitato al Cremlino. Sentiamo i protagonisti, incredibilmente sinceri. Io poi Ti dissi quello che avevamo stabilito, ossia potete prendere atto della nostra decisione, che è la seguente. La questione della riunificazione, comprese modalità e tempi, deve essere decisa dai tedeschi. Di un po', di la verità. Una soluzione del genere non te l'aspettavi, eh? Certo che no. E non è difficile capire perché. Avevi espresso con una forma esplicita e inequivocabile qualcosa che nessuno davvero si aspettava. Non immagini cosa hai scatenato nella mia testa. Una sensazione di grande gioia, un momento estremamente felice della mia vita, giunto in modo assolutamente inatteso. Era come se qualcuno avesse premuto l'acceleratore e la storia si fosse messa improvvisamente a correre. Una cosa fantastica. Il segretario generale Gorbaciov e io concordiamo nel ritenere che sia esclusivo diritto del popolo tedesco decidere se vivere insieme in un solo Stato. Quel giorno di febbraio in cui ci siamo incontrati qui e abbiamo finito i colloqui a tarda ora dopo una pesante giornata di lavoro, ricordo che tu però non eri affatto stanco, tant'è che sei andato direttamente sulla Piazza Rossa. Mi sembrò strano. Come ti è venuto in mente? Fu una cosa spontanea? Come mai l'hai fatto? Dopo una giornata come quella non avevo voglia di andare in albergo o nella dacia. Mi sentivo troppo stretti. Ho sempre considerato la Piazza Rossa l'anima di Mosca. E quando si attraversa la Piazza Rossa è come attraversare il cuore di tutta l'Unione Sovietica. Quella sera ascoltai più l'anima che la ragione. L'incontro con Gorbaciov è stato un successo. E un altro successo Kohl lo ottiene alle elezioni del 18 marzo del 90. La coalizione conservatrice guidata dal suo partito vince le elezioni in Germania Est e forma il primo governo eletto democraticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Adesso i tedeschi sognano una Germania europea, anziché come prima un'Europa tedesca. Ha inizio una vera e propria maratona di negoziati. Intanto però il processo di riunificazione continua, non solo grazie a Kohl, ma anche al suo ministro degli esteri, Genscher. Negli anni 50 si erano tenuti dei summit delle quattro potenze vincitrici, dove i due stati tedeschi venivano relegati al tavolo della servitù. Ero del parere che stavolta i due stati tedeschi avrebbero dovuto parlare alla pari con le quattro potenze. Due, ovvero i due stati tedeschi, e i quattro potenti, Washington, Mosca, Parigi, Londra. E questa cosa aveva una forte valenza politica. Noi vogliamo che l'unificazione dei tedeschi diventi un contributo alla stabilità nell'Europa intera. Lavorare in questo senso fa parte della vocazione europeista dei tedeschi, che si sono consacrati alla politica della responsabilità, rinnegando la politica di potere del passato. Il punto cruciale dei negoziati dei 2 più 4 riguarda l'appartenenza della Germania alla NATO. Durante la visita di Mikhail Gorbaciov al presidente Bush, agli inizi di giugno, tedeschi e americani insistono perché la Germania sia uno Stato sovrano e faccia parte della NATO. Un'idea difficile da accettare per l'Unione Sovietica. Il clima è teso. Nessuno sa se la riunificazione sarà effettivamente realizzabile. Ecco Bush e Gorbaciov. L'incontro che ricordo fu nella sala del gabinetto alla Casa Bianca. Eravamo seduti uno di fronte all'altro e lei disse: «Credo che i tempi siano maturi per consentire l'autodeterminazione della Germania». Brent Scowcroft era seduto dietro di me e mi passò un biglietto dove era scritto: «Chieda al segretario Gorbaciov di ripetere». Facemmo una pausa per consentirle di consultarsi con il suo staff. Ricordo anche che mentre uscivate dalla stanza Brent mi disse: «È un momento storico. Gorbaciov ha compiuto un gigantesco passo in avanti». Devo ammettere che fu una decisione estremamente difficile. Non perché ci fossero resistenze interne, no, questo no. Tutti sapevano, sì, tutti sapevano come stavano le cose, ma avevamo la netta sensazione di perdere qualcosa in quel momento. E questo ci provocava non poche difficoltà. Stretto all'angolo, Gorbaciov gioca la sua ultima carta, concedere la sovranità alla Germania. In cambio il segretario sovietico si aspetta un miglioramento nelle relazioni economiche con gli Stati Uniti. Però non è così. Gorbaciov torna a Mosca a mani vuote e l'opposizione all'interno del Partito Comunista sarà durissima. Da Bonn intanto una delegazione si mette in viaggio per Mosca. L'obiettivo dei colloqui è chiaro: unità della Germania e permanenza nella NATO della nuova Germania unita. I colloqui si svolgono nella dacia di Gorbaciov nel Caucaso e la missione politica si trasforma in un incontro cordiale. E il 16 luglio del 90, ancora una volta, parlano i protagonisti ed è quasi una confessione. Il ministro degli esteri tedesco Genscher e poi Mikhail Gorbaciov. Arriviamo così ai colloqui, nei quali in sostanza bisognava decidere tre questioni importanti. Che ne sarà delle truppe sovietiche di stanza in Germania Est? Quando dovranno ritirarsi? E, risolta la questione del ritiro, quale sarà il contributo economico che dovrà versare la Germania? Voi avanzaste le vostre proposte al riguardo. Le prime offerte fatte a questo proposito andavano dai 4 agli 8 miliardi. Noi rifiutammo, perché era troppo poco. Del resto per noi quell'operazione comportava un costo enorme e tantissimo lavoro. Tornare su questa strada mi risveglia tanti ricordi. Ad esempio, ricordo che io, tu, Helmut Kohl, Edward Shevardnadze, stavamo passeggiando qui con gli interpreti e a un certo punto sento qualcuno che mi prende la mano. Era Raisa. Si trovava proprio qui. Che mi disse: devo dirle una cosa, signor Genscher. Spero che lei si renda conto di quanto stia facendo mio marito e quanto sia importante tutto questo. Noi dobbiamo avere l'assoluta certezza che onoriate i vostri impegni come faremo noi. A parlare era una moglie affettuosa, preoccupata per il destino del marito. Oggi che Raissa non è più tra noi, per me quel gesto ha il valore di un testamento politico. Tra l'altro, di questo vostro colloquio l'ho saputo solo da te. Fu una sua iniziativa. Raissa era rimasta contagiata dal clima di eccitazione che si respirava. Sentiva di essere testimone di un evento di grandissima portata e me lo disse apertamente. L'unica cosa che posso dire è che sono orgoglioso di lei. Fece una cosa giusta. Confidenze velate di tristezza, ma anche di umanità. Il ministro degli esteri tedesco e il presidente Gorbaciov ricordano Raissa, la moglie amatissima di Mikhail. D'altronde, quei colloqui dell'estate del 90 nella dacia del Caucaso sono stati definiti la diplomazia in pullover. Eppure segnano una svolta epocale. La guerra fredda è davvero finita. Il processo di riunificazione della Germania è avviato e va di pari passo con la costruzione di una nuova Europa. Le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale hanno dato il loro consenso all'unificazione dei due stati tedeschi. Il trattato che segna la fine della Repubblica Democratica Tedesca viene firmato in un giorno di fine estate, è il 12 settembre del 90. Il Parlamento ha testé decretato per il 3 ottobre la fine della Repubblica Democratica Tedesca. Il 3 ottobre del 90 si compie una pagina della storia europea iniziata 329 giorni prima, con l'apertura della frontiera tra Berlino Est e Berlino Ovest. E quella sera, davanti alla porta di Brandeburgo, un'immensa folla celebra la fine di una lunga separazione, una fine pacifica, senza violenza. Una svolta storica e anche fortunata, come ci dice il consigliere del cancelliere Helmut Kohl. Ho sempre sostenuto che se il conflitto con l'Iraq dell'agosto 1990 fosse esploso 6 mesi prima, noi non avremmo potuto portare a casa la riunificazione in modo così rapido e tempestivo, dato che a partire dall'agosto del 1990 gli americani si dovettero dedicare soltanto all'Iraq. Non avrebbero avuto più tempo per la questione tedesca. Picchetto della bandiera! Ripiegare la bandiera! Con quest'ultimo ordine, il 2 ottobre, l'esercito popolare della Repubblica Democratica Tedesca esce dalla storia. Il 3 ottobre 1990, giorno dell'unità tedesca, a termine il processo iniziato 329 giorni prima, con l'apertura della frontiera tra Berlino Est e Berlino Ovest. Strade in diretta. Sull'A8 Milano-Varese, code a tratti tra Gallarate e Castellanza verso Milano sono le conseguenze di un incidente ormai risolto e alle porte di Milano rimane trafficata soprattutto la 4 per chi proviene da Torino, sempre intorno a Milano trafficata la tangenziale ovest verso i laghi con code anche per un cantiere tra Baggio e Rho. E in tema di cantieri vi anticipiamo che questa notte sarà chiusa la 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Ponte di Nona e il grande raccordo anulare in direzione di Roma. Si lavorerà dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina. Infine ricordiamo i provvedimenti antismog a Napoli. Lunedì, mercoledì e venerdì circolazione vietata sull'intero territorio urbano dalle 9 alle 12.30 e tra le 14.30 e le 16.30. Dal divieto sono escluse le auto Euro 4 e quelle alimentate a GPL o a metano. E ricordiamo il nostro numero verde per le vostre segnalazioni 800 08 36 22. È tutto, a più tardi. Promo 24. Vaillant celebra 140 anni di innovazione responsabile con un evento itinerante che sta toccando importanti città nel mondo. Dopo Pechino, Bonn, Mosca, Bucarest e Shanghai, il leprotto di Vaillant fa finalmente tappa a Milano, il 3 e 4 ottobre al Palazzo dei Giureconsulti. La mostra, dal suggestivo nome Nel Tempo, retrospettive e visioni future, è un affascinante viaggio che ripercorre la storia di Vaillant dall'anno della fondazione, il 1874, fino ai giorni nostri, ma anche uno stimolante laboratorio interattivo sugli scenari futuri. Nelle stazioni multimediali del Future Studio si potrà creare la propria visione del futuro. Perché Vaillant guarda lontano. Per saperne di più, Vaillant.it. L'economia oggi è un'economia che si basa sull'attrazione dei talenti, sulla conoscenza, e dobbiamo farli rimanere quelli bravi e attrarre di nuovo qui quelli che sono andati via perché non vedevano le condizioni per farlo qui. Solo i paesi più attrattivi vinceranno la sfida della globalizzazione. L'Italia cosa offre ai suoi giovani? Ho visto l'università e l'ho vissuta come uno specchio della realtà italiana e tutto quello che ho visto mi ha fatto capire che in realtà senza agganci non vai molto avanti. Giovani Talenti vi racconta l'Italia del futuro, una nuova classe dirigente che dice sì al merito, no alla raccomandazione, sì all'innovazione, no alle rendite di posizione. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti su Radio 24. Mix 24, la storia. Ciriaco De Mita, sindaco di Nusco. Lei nel 1989 è stato presidente del Consiglio. Se lo aspettava questo cambio improvviso del mondo? Beh, in un certo senso sì. La evoluzione avvenuta nell'Unione Sovietica e ha suscitato un interesse enorme. E la percezione che le linee dell'equilibrio in Europa e quindi nel mondo dovessero essere diverse era evidente. E quando lo ha capito esattamente? L'ho capito in seguito ad una conversazione che ho avuto con Gorbaciov. Quando era? Nell'89 sempre? Nell'88. Nell'88, quando conversando molto cordialmente in una cena a casa sua, nella dacia sua, e si pose il problema del valore della tradizione marxista. La moglie difese con grande vigore la tradizione. Lui la interruppe, mi guardò e poi disse: sa, mia moglie è filosofa, ma l'uomo senza spiritualità che cos'è? E fu un segnale che, come dire, le ragioni dell'equilibrio mondiale dovevano cambiare. Cosa non avete capito voi, classe dirigente dell'epoca? No, credo che la classe dirigente, come dire, ha afferrato la straordinaria novità. Beh, però poi non ce l'avete fatta come classe dirigente, proprio dopo il crollo, no, del muro di Berlino e poi con la riunificazione della Germania. Beh no, perché diciamo che il crollo del muro di Berlino e la unificazione della Germania in un certo senso la classe dirigente l'aveva previsto. Quando parlo di classe dirigente parlo della totalità. Sì, certo. Io potrei ricordare un episodio. No, però dico voi poi non ce l'avete fatta, nel senso che con il crollo dei due blocchi siete stati spazzati via anche voi, Democrazia Cristiana e Partito Socialista. Cosa non avete capito? No, questa connessione, come dire, esiste, ma lei dà una lettura diversa. Il cambio di classe dirigente non è legata alla capacità di previsione. Quell'epoca ha avuto una previsione da parte del cancelliere tedesco, che non solo ha lavorato per l'unificazione, ma il cancelliere tedesco, proponendo la moneta unica, spiegava che la presenza della Germania in Europa divisa sarebbe stato un rischio per l'Europa e che la Germania non sarebbe stato un rischio in un'Europa unita. Quindi altro che previsioni realizzate. Poi potrei dire, adesso non per assolvere, che la difficoltà per le classi dirigenti che sono venute dopo, le ragioni della fine dei partiti storici ha spiegazioni diverse e responsabilità diverse, ma la previsione che il mondo cambiava, beh, c'è stata e come che c'è stata. Una volta crollato il muro di Berlino si trattava, come appunto lei ha detto, di decidere le sorti della Germania allora divisa. Era più la spinta e il desiderio di vederla riunificata oppure il timore? Da parte vostra? No, probabilmente, come dire, quelli che non si ponevano il problema potevano anche immaginare che fosse meglio che la Germania rimaneva disunita, ma la novità, per chi l'aveva percepita, quando Collo dice ad Andreotti e Forlani che lui avrebbe fatto l'unificazione tedesca, io dopo, nel racconto che mi fu fatto, il giudizio era che questa previsione non era una cosa realizzabile, invece si è realizzata. Andreotti diceva: amo talmente la Germania che ne preferisco due. Vista oggi, aveva ragione? Aveva torto. Andreotti aveva una grande capacità di capire il presente. E perché aveva torto? Perché non prevedeva il futuro. E allora qual è la strada? Cosa deve provare a ottenere Renzi o comunque l'Europa? Che direzione deve avere? Io a Renzi non do consigli, perché lui prevede tutto, sa tutto e indovina tutto. Ne parliamo fra un anno. Ma una direzione per l'Europa, al di là di Renzi, per noi cittadini europei? O l'Europa unita si costruisce o diversamente andiamo verso una posizione di regresso. Come si fa a costruire? Integrandola, accelerando il processo di integrazione. Il paradosso che noi vediamo il limite non nella mancanza di integrazione, ma in quel poco di integrazione che c'è. Perfetto. Paradossalmente, anziché fermarsi, bisognerebbe accelerare il cammino. Grazie Ciriaco De Mita. Un ringraziamento ad Antonella Migliaccio, Manuel Guerrini, in redazione, Alessandro Chiappini, Valerio Rocchetti, in regia.